Radiazione 16 ottobre 2013, si riparte dopo qualche giorno mancato, ma praticamente lunedì doveva esserci la diretta d'azione, è stata spostata ad oggi perché quella di venerdì veniva anticipata a giovedì. Non ci state capendo un cazzo, nemmeno io, però alla fine dovevano esserci due dirette mercoledì e giovedì, uno dietro l'altro, se ne è preferita fare una. Con controinformazione, musica ovviamente e soprattutto la lettura della Zandraia con Marcello. Ricordo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@autistici.org per la mail, per chi vuole mandare qualsiasi tipo di scritto, comunicato, facci sapere di iniziative, mandare riviste online, insomma, un botto, pure critiche, pure vaffanculo, vanno bene, le accettiamo. Non fate i complimenti, mandateci a fanculo, siamo più contenti. E allora, quindi, sulla mail, mi raccomando, ogni tanto mandate anche qualche consiglio sui libri da leggere il lunedì. Oggi è mercoledì, però normalmente le letture si fanno il lunedì. Quindi mandatele qualche consiglio, se avete qualche libro che vi fa piacere sentire leggere attraverso Radiazione. Invece per il blog è radiazione.noblogs.org, dove potete riascoltarvi tutte le dirette d'azione vecchie attraverso la categoria Ascolta le dirette d'azione. Ci sono tutti i podcast, ultimamente ne sono stati aggiunti due, che era quello dell'ultima diretta d'azione fatta più quella di settembre, che mi ero dimenticato di mettere in record il podcast, quindi stavolta c'erano tutte e due, le abbiamo pubblicate. radiazione.noblogs.org, potete scaricarvi anche opuscoli, libri, manifesti, cd, tutto quello che trovate nella sezione download la potete scaricare, comprese le dirette d'azione, perché non si possono solo ascoltare ma anche scaricare, così non appesantite il vostro computer avendo un browser aperto, vi scaricate la puntata, chiudete il browser, vi ascoltate la voce e poi la cestinate. Per la radio invece, sempre attraverso il blog di Radiazione, c'è il banner, ci cliccate sopra e vi si appiccia la radio. Solo il lunedì e il venerdì, oggi è mercoledì, lo ricordo ancora una volta, non c'entro un cazzo, il lunedì e venerdì dalle 17 alle 19, altrimenti il link completo diretto è radiazione.listentumaradio.com. Allora, oggi come ho detto ci sarà musica, controinformazione e lettura. Si partirà, ora ascolteremo prima un brano e poi dopo si partirà subito con la lettura della Zandraia. Ci ascoltiamo un brano di She Passed Away, Boots Vulanic, e dopo si torna qui ed è subito Zandraia. Questi erano i She Passed Away e il pezzo si chiamava Boz Bulanik. Ricominciamo alla lettura della Zantraglia, giusto un brevissimo assunto delle puntate precedenti. Eravamo arrivati, dopo aver attraversato tutte le vicende interne al porto di Napoli, il nostro protagonista si imbarca su un cargo per il Mediterraneo orientale. L'altra volta ci eravamo lasciati con un'avventura vissuta nel porto di Izmir e adesso clandestini. Per uscire dal fiordo del gatto siamo costretti ad una serie infinita di accostate che finalmente ci portano sulla rotta per Cipro, la nostra prossima destinazione. L'isola non è lontana. La nave tace, intorno sfilano veloci, le luci della costa sonnolenta, ma in coperta nessuno dorme, neanche chi non è di guardia. Il lavoro ad Izmir è stato molto pesante, la stanchezza è troppa e allontana il sonno. Mi siedo nella saletta, poi con alcuni macchinisti, un allievo, l'autista e il terzo ufficiale, iniziamo a giocare l'ennesima partita al calcio balilla, la coperta contro la macchina. Una delle figure della stecca d'attacco, quella con tre calciatori, ha la testa dipinta di nero. Perché è un fuoriclasse, e il fuoriclasse è sempre negro, come Eto'o, oppure come Drogba, mi informa uno dei macchinisti, seguito da un u che imita il verso delle scimmie negli stadi di calcio di mezza Europa. Prima di essere impiegati sulla linea mediterranea, in molti hanno navigato a bordo dei cargo della linea West Africa, che tocca i porti dell'Africa occidentale subsahariana. Sono stati a Dakar, Freetown, Lomé, Lagos, Douala. Sono scali molto diversi da quelli europei, mediterranei o sudamericani. La corruzione regna sovrana in ogni aspetto. Si attracca e si disormeggia soltanto dopo aver pagato il port control, il pilota e gli ormeggiatori, con i dollari prelevati dalla cassa della nave. I moli e le banchine sono militarizzati e tutti i varchi sono presidiati da soldati armati di mitragliatore. Alcuni marittimi ricordano le rive africane per la disponibilità di ragazze a buon mercato. In certi porti arrivano a bordo già in rada. Sono accompagnate dal padre che mendica al cambusiere un po' di cibo mentre le ragazze fanno il giro delle cabine. In altri porti poi bisogna scendere a terra, ma per farlo bisogna scegliersi un boy di scorta, un ragazzo che funge contemporaneamente da assicurazione e da guida, assicurazione contro gli assalti e le rapine che da quelle parti sono molto frequenti. Trovati i boy, si viene accompagnati in locali fumosi dalle luci basse, dove si beve, si balla e si scopa pagando quanto convenuto alla mamanna che gestisce il tutto. Ubriachi molesti o uomini troppo ardenti sono tenuti a bada da poderose guardie del corpo che stazionano all'ingresso. A Lagos scendono anche i filippini. Lì c'è il più famoso bordello della zona con le mignotte filippine e sembra che a loro piacciano soltanto donne della propria nazionalità. Nonostante le precauzioni, spesso accadono degli inconvenienti. A Lagos, di ritorno da bagordi notturni, il primo macchinista e l'allievo, con cui adesso gioco a biliardino, furono fermati dalla polizia locale che li portò fuori città. Si ritrovarono in una boscaglia tropicale, minacciati da energumeni in divisa khaki e faccia scura, con cui contrattarono la loro liberazione per $1,000. Poi, per ritornare in città, pagarono il taxi $200 a testa, rientrando in ritardo e completamente al verde. L'Africa non è solo il luogo di rimembranze avventurose, di quel cuore di tenebra. Quando si soffermano nella descrizione della miseria che hanno incontrato, i volti dei marittimi assumono un'espressione afflitta, sincera quanto ingenua. Capanne di fango, corpi stesi a terra agonizzanti, i racconti dipingono l'inferno in terra. A Lomé, un portuale seminudo rimase schiacciato da un trattore mentre si affrettava a correre a bordo per aiutare la movimentazione di un contenitore. L'urto gli schiacciò il torace, gettandolo appeso morto sulla rampa, dove rimbalzò più volte, straziando la carne sudata. Il lavoro lì non si fermò neanche per un minuto, il corpo fu spostato di lato. Quando la nave ripartì, quel corpo era sempre lì, riverso su se stesso, con il cranio penzolante sull'acqua salmastra e stagnante. In Africa, la nave si militarizza, nel tentativo di evitare che uomini clandestini si intrufolino tra la merce. Tentano di nascondersi sotto i pianali dei camion, dentro i container, nelle auto, ovunque. Mi raccontano che a Dakar un ragazzo africano dall'età sconosciuta riuscì a salire scalando i grossi cavi dell'ormeggio. arrivò nei locali dei Verricelli di Prora, dove sono stipate le grosse ancore, e si nascose nella grande cubia interna, accoccolandosi contro le gigantesche maglie umide e salate. Il mare aperto iniziò a gridare, stremato dallo sforzo di nascondersi, era scivolato sempre più verso il mare e ora si aggrappava con braccia e piedi nell'angusto spazio della cubia esterna, scosso dal vento e aggredito dagli schizzi di acqua salata. A bordo se ne accorsero solo dopo qualche ora. Gli lanciarono una cima che mancò troppe volte perché, spaventato, temeva di essere gettato in mare. Cosa che accade meno di rado di quanto si possa immaginare. Un clandestino è un problema economico per l'equipaggio. Ogni uomo irregolare a bordo porta il taglio di premi e incentivi e quindi una diminuzione del guadagno. Si racconta che a bordo delle navi con equipaggi russi e greci, i clandestini li gettano in mare senza tanti complimenti, talvolta non prima di aver amputato una gamba o un braccio. Diceria alimentata dai frequenti ritrovamenti sulle coste mediterranee atlantiche di corpi mutilati e sfregiati dai pesci. Insomma, quel clandestino se ne stava lì, aggrappato allo scafo che intanto già sfrecciava a 23 nodi. Dopo molti sforzi riuscirono a issarlo a bordo, dandogli pesanti scappellotti. Gli diedero un'uniforme asciutta e un pasto caldo. Poi lo rinchiusero nella cabina a cella, adibita a cella per i migranti, ormai presente su molti cargo al tempo del container. La nave era diretta verso porti belgi, svedesi, inglesi, per poi far ritorno in quelli africani. In ogni scalo, i funzionari di frontiera si limitarono a verificare le condizioni di salute del clandestino, ma gli negarono l'accoglienza. Per un mese il ragazzo di Dakar era rimasto a bordo, prigioniero ma ben nutrito. Venne fatto sbarcare solo nel porto da dove, faticosamente, era riuscito a fuggire ed attenderlo sulla banchina trovò la polizia locale. Appena mise piede in terra, gli agenti iniziarono a massacrargli il corpo rinvigorito dai pasti di bordo. Le merci viaggiano veloci, sono gli uomini a non potersi muovere. Emigrare, ormai, è una battaglia. E questi erano Gang of Four. Ora, dopo la prima lettura della Zandraia, si passa subito con la controinformazione. Oggi di controinformazione propria, cioè è sempre controinformazione, però sono più che altro scritti, la maggior parte a firma Radiazione, quindi vi subirete un po' di cose, un po' di pensieri e deliri. Allora, il primo testo è Radiazione, Anno Nemic e riflessioni. Nel 2007, dopo lo schifo che avevo potuto notare girando l'Italia, decisi di chiudere il progetto Affinità Periodico Insurrezionalista. Era così tanto lo schifo che io stesso pensai di non aver più nulla da scrivere e soprattutto non avevo più nulla da dire a buona parte degli anarchici italiani. Lo schifo era dovuto da incoerenze molto evidenti e molto difficili da buttare giù, veleno su alcuni compagni più giovani solo perché più antipatici a qualcuno, e barricate ad oltranza tra le sante fratellanze intoccabili che si difendevano e tuttora si difendono da cose reali e non come il veleno che sputavano sugli altri. E questo lo afferma un individuo che, come è stato scritto, che non ha nessun tipo di problema a definirsi incoerente. Non tirerò ancora fuori quella storia perché gli anarchici non ne hanno voluto sapere e quindi resta una cosa mia personale, anche se non lo doveva essere. Non ho bisogno di nulla, non ho bisogno di mostrare niente a nessuno rispetto alle mie idee, non indosso vestiti che potrebbero starmi stretti o larghi giusto per mettere in bella mostra il manichino. Non ho bisogno di sentirmi rincuorato perché qualcuno ha cercato di strapparmi quei vestiti che io non ho mai indossato. Con il mi dispiace, sentito più volte in questi giorni, mi ci pulisco il culo e mi sa tanto di cordoglianze funebri. Idem per il hai fatto bene a farlo uscire fuori. Questa è delega, cari compagni. Non ho bisogno e non ne ho mai avuto di quegli individui che dall'alto della loro voglia di autorità con i compagni più giovani, invece di spendersi per l'anarchia, spendono in ciuci a destra e manca da anni e anni nel movimento anarchico. Vomito su chi è felice che qualcuno finalmente abbia attaccato il sottoscritto con certi termini con la speranza di liberarsi di me, il rompicoglioni che fa danni in giro. Brindate pure, chissà che il sorso non vi vada di traverso prima o poi. Per il sottoscritto le loro parole hanno lo stesso peso di quello delle mummie, peso netto 0 grammi. Io le mele non le devo andare a sventolare in faccia a nessuno, non ne ho bisogno e me ne sbatto il cazzo di farlo. Le mie idee sono la mia quotidianità e soltanto chi mi conosce bene può sapere se sono anarchico, razzista, sbirro o infame. Agli altri che non mi conoscono lascio la scelta, l'inciucio e la rivalsa nei confronti di chi le cose le scrive e le dice apertamente in faccia. Mi definite anarchico? Non me ne frega un cazzo. Mi definite infame? Non me ne frega un cazzo. Mi definite razzista? Non me ne frega un cazzo. Mi definite sbirro? Non me ne frega un cazzo. Mi definite una testa di cazzo che va in giro a fare danni? Non me ne frega un cazzo. In poche parole, dell'urido chiacchiericcio da bar non me ne frega un cazzo. Me ne resto in silenzio davanti a chiacchiericcio e scelgo di intervenire in esso quando lo ritengo opportuno e in che modo intervenire. La stima che ho di me stesso è come una barriera antirumore, non vi sento e vado avanti per la strada con le mie idee. Più mi amo e più vi odio. Il vostro paraculismo invece non ha barriere. Voi che da anni regalate il termine infame e testa di cazzo inaffidabile a destra e manco contro vari compagni che vi stanno sui coglioni o sulle vaie, così non si offende nessuno e non vengo additato anche di maschilismo, siete tanti rennuti, convinte di mettere in mostra la vostra durezza e purezza, ma sappiate che se esiste chi vi regala l'autorità e vi applaude facendo finta di ammirare il vostro vestito, ci sarà sempre il bambino che additerà le vostre nudità. Nel 2007, da una vigliaccata subita, fatta uscire fuori, passai come una testa di cazzo e subì in qualche occasione lo stesso trattamento che dovrebbero subire gli infami. Ci tengo a precisare, nessuna forma di violenza fisica. E vi dico sinceramente che fa molto male subire certi atteggiamenti, per questo motivo chiusi Affinità Periodico Insurrezionaliste. Quindi l'invito è a capire veramente il significato di un tale termine, prima di pronunciarlo contro qualcuno. Gli infami si vanno a prendere direttamente sotto casa e non si indicano negli iscritti o nel chiacchiericcio da bar. Oggi, dopo che qualcuno mi ha definito infame, sbirro e razzista perché ho fatto uscire fuori un fantasma del passato, non chiuderò Radiazione, no. Radiazione da oggi sarà ancora più velenosa, ancora più provocatoria e punterò l'obiettivo su tutti quelli che cercano di fermarla con qualsiasi mezzo. L'aviazione non si fermerà perché dal momento in cui ha deciso di intraprendere questo progetto lo ha fatto prefissandosi come obiettivo il continuare a dare voce ai compagni detenuti attraverso le pagine del blog e attraverso le stesse pagine continuare a dar voce al suono della dinamite che in tutto il mondo solidarizza con gli stessi compagni detenuti e lotta contro lo Stato capitale. Radiazione Ano Nemic, l'anonima nemica dell'anno di chi la vuole male. E dopo questo scritto a firma mia, quindi a radiazione, non ci sono anonimi dietro la radiazione, ci ascoltiamo un brano dei Crisma, Crucial Point, poi dopo si torna qui e si torna con la lettura della Zandraia con Marcello. le automobili sonnecchiano nei garage. Tubi, frizioni, cavi, fili, iniezioni, dispositivi senza vita sono immersi nell'ipotermia delle stive. Nei monitor, nei motori dei veicoli, piccole gocce di condensa insidiano i congegni, ma non fanno in tempo a completare l'involontario sabotaggio che già si ritrovano al sole di un piazzale del Mediterraneo orientale. La guerra di corsa, al tempo del container, è combattuta per la loro sopravvivenza. Le auto che si comprano a terra non sono mai nuove del tutto. Hanno già percorso chilometri di garage e piazzali portuali, dove diventano le merci del door-to-door, la logistica integrata che lega il produttore al consumatore. L'armatore guadagna sulle auto realmente usate che viaggiano da sole, ma non come componente di uno stock. Il loro biglietto è più caro. Al tempo del container, un ferro vecchio fa fare più soldi di uno nuovo. Le auto riposano, nonostante tutto. Per gli uomini invece è il sonno il tesoro di bordo, la vera merce rara, spezzettato com'è negli orari più diversi della giornata. C'è chi dorme sotto coperte di lana pungente per proteggersi dall'aria condizionata, chi nudo, chi si è portato il pigiama da casa, chi sonnicchia con il televisore accanto, un ersatz, un sostituto del calore umano. A bordo anche il silenzio è rumoroso. È un ronzio costante di sistemi da reazione e riscaldamento. Il ferro si tende, le paratie plastiche tremolano. All'alba un aspirapolvere interrompe sogni appena accennati. Una musica orientale riempie i corridoi e dà la sveglia alla guardia mattutina. La nave procede da sola, priva di un apparente comando. Il cameriere filippino rassetta le cabine dell'equipaggio. Due allievi escono sul ponte a bagnarsi con un tubo che succhia acqua dalle cisterne. Poi si siedono a prendere 10 minuti di sole e vento. Uno dei mille rimedi per affrontare il tedio delle giornate in mezzo al mare. Il sesso, l'amore e gli affetti assumono contorni sfumati, le relazioni amorose diventano surrogati, alimentati dalla posta elettronica. Il telefono è caro e le conversazioni si ripetono uguali. Il cruccio dei padri in mare è il crescere solitario dei figli, ansia degli innamorati e la gelosia, il sospetto, la nostalgia. Il cargo è un ambiente maschile dove la pornografia riempie momenti di tristezza e desiderio con le sue mutevoli forme, i calendari di donnine nude che tappezzano le cabine e gli armadietti pieni di DVD e VHS a luci rosse. Le donne sono assenti, immaginate in solitudine. Il laptop ha sostituito la saletta, i film si vedono nello spazio ristretto del proprio alloggio, senza commenti sguaiati, senza interruzioni. Anche la TV, arrivata a bordo via satellite, regala l'impressione intermittente di vivere la vita degli altri, di quelli di terra. La rada del porto di Limassol è affollata da 15 cargo. L'acqua del porto è di un azzurro sbiadito dovuto al materiale calcareo della pomice dragata di recente dai fondali. Cipro resta una tappa fondamentale per la guerra di corsa, un nodo di interscambio dello scacchiere medio orientale. La base aerea inglese, che occupa un quinto del suolo nazionale, garantisce una parentesi di stabilità nell'isola spartiacque tra Oriente e Occidente. A bordo si mormora della base diventata un resort per vecchie spie e agenti dei servizi inglesi in disuso, un ottimo nascondiglio. Sul ponte i marinai filippini lavano le navi, le auto incrostate dalle notti passate in coperta a largo. Le sciacquano con forti getti di acqua e sapone. Le automobili che sbarcano a Cipro sono di lusso, arrivano dalla Gran Bretagna per essere sdoganate e poi reimportate in patria. È uno dei tanti modi per evadere le tasse. È un carosello di plusvalore che va avanti ormai da molti anni. Sciacquate le auto si incolonnano fino al garage del Ponte 10 e lì due marinai le asciugano con delle enormi pelli di daino. Al momento dello sbarco le auto saranno scintillanti. Al lato della diga foranea del porto di Limassol dei ragazzi fanno una gara di tuffi. I marinai della Marina Militare Tedesca in missione ONU osservano la scena dal ponte della corvetta ormeggiata all'ombra delle uniche due gru Pacheco del porto. Sull'altra sponda della Darsena ecco i container, ossessione del mare contemporaneo. Ideogrammi e scatoloni sono imbarcati su piccoli feeder diretti verso la vicina Turchia o verso Israele, le due tigri economiche del Mediterraneo. L'ormeggio non è difficoltoso, nonostante le ridotte dimensioni dello scalo. Stavolta il comandante non lancia nessuna stecca di sigarette, non ne regala al pilota salito poco fuori dal porto. L'uomo d'onore di mare non ha stima dei ciprioti, gente coinvolta troppo spesso in traffici legati all'immigrazione clandestina. Se vogliono le sigarette se le vanno a comprare. Chiosa in plancia, ingurgitando una mezza tazzina di un caffè ormai freddo. Abbassata la rampa, le auto, appena lucidate, sbarcano. Alle spalle dei portuali, consumati dal sole e dalla brezza di scirocco, turisti israeliani fanno il bagno nella piscina di una nave traghetto battente bandiera di Nassau, che fa una mini crociera tra Haifa e un porto sicuro, appunto Limassol. La scaletta di accesso al traghetto è sorvegliata. La scaletta di accesso al traghetto è sorvegliata dalla una security armata. Senza previo controllo non sale e scende nessuno. Microorde di uomini e donne dall'aspetto opulente occidentale aspettano in fila di ritornare a bordo e alla piscina per sosteggiare un cocktail e rimirare gli acquisti duty free. Dal cargo l'equipaggio fischia e fa proposte oscene alle ragazze in costume. Sulla banchina perpendicolare a noi, una nave cipriota, la Maya, fa prendere aria ai depositi dopo settimane di mare. I caschi di protezione gialli indossati dai marinai indiani spiccano tra la nuvola di polvere di ruggine, mentre si calano nelle stive per i lavori di manutenzione. È una scena dai contorni incerti. Una bettolina, anch'essa rossa, fa la spola tra le navi ormeggiate. Limassol guarda il suo porto arroccata sulle colline dell'entroterra. La linea costiera è segnata da costruzioni basse con l'intonaco accennato del tutto scrostato. Nessun palazzo supera l'altezza del castello medievale che svetta tra le palme del centro cittadino, l'antico bastione dei crociati cristiani diretto verso Gerusalemme, ora meta di un turismo di massa avaro e ignorante. Come ad Izmir, parto in cerca di birra, accompagnato sempre da un macchinaro, un allievo. Puntiamo la baracca di lamiera e legno giusto di fronte alla rampa della nave. Scendo tra tonfi metallici, rombi e fumi di motore e seguendo l'odore della griglia mi infilo nel patio traballante. Il bancone è di alluminio e sulla piastra calda sfrigo la carne di montone. Ordino una birra, poi una seconda. Mi siedo al fianco di un gruppo di portuali locali che sorseggiano caffè turco giocando a tavla, il backgammon. Gioco con loro un paio di partite che vinco tra la sorpresa degli omaccioni e mi pagano da bere anche se un po' borbottando. Arriva il cambio della mano, da un furgoncino arancione scendono dei vecchietti corpulenti, fasciati in calzoni corti, sputando saliva filamentosa dall'asfalto. Gatti pelosi e furbi gironzolano nei dintorni, in attesa degli scarti di fine giornata. Risalgo a bordo con l'impressione di aver perso qualcosa. Un'avventura? Ma non c'è tempo per capire. Noi, adesso, corriamo in Medio Oriente. Just made of my own. Loro erano Pink Tars Blue con il brano State of Mind. Ora si ritorna alla controinformazione facendo una breve nota introduttiva, perché praticamente il 30 ottobre a Genova ci sarà il processo per Alfredo e Nicola, i due compagni arrestati e accusati del ferimento di Roberto Adinolfi alla DIA di Anzaldo Nucleare. Leggiamo questo volantino che ci arriva tramite mail dal titolo Conti che non tornano. Allora, 2 anni passati dall'ultimo incidente ad una centrale nucleare, Fukushima, un numero mai calcolato ed incalcolabile di morti, feriti e contaminati, danni a livello globale che la comunità tecnico-scientifica, il governo e la stampa giapponese e internazionali cercano maldestramente di celare. Fino all'ultima farsa tragica dei prossimi giochi olimpici in Giappone, con cui la propaganda vorrebbe rifare il belletto ad un territorio devastato, mortifero ed impraticabile. Un numero mai calcolato di fusti di scorie radioattive dispersi e stillanti morte e veleni tra le campagne di Saluggia e Trino Vercellese, a ridosso del bacino del Po, vestigia dell'ultima centrale nucleare dismessa in territorio piemontese, quella di Trino Vercellese. Un regolare passaggio di treni carichi di scorie nucleari destinate al riprocessamento, leggi a riuso, tra il nord Europa, l'Italia, il corridoio della Val di Susa e la Francia. Un gruppo industriale, la Finmeccanica, con interessi diversificati tra cui nel nucleare ad uso civile, manutenzione delle già esistenti e costruzione di nuove centrali nucleari, nella produzione e traffico di armi e sistemi di controllo, soprattutto nelle nuove frontiere di espansioni, centrali nucleari in Romania, traffico di armi con l'India, solo per fornire qualche plateale esempio, eccetera eccetera, oltre che il tipico esempio di truffa, corruzione e sfruttamento connaturate a qualsiasi espressione del dominio e del capitale. Un progettista di centrali nucleari, un paladino di una clamorosa, falsa e fallace sostenibilità dell'utilizzo del nucleare ad uso civile, nonché amministratore delegato di Anzaldo Nucleare, gruppo Finmeccanica Roberto Adinolfi, ferito da un colpo di pistola sotto casa sua il 7 maggio 2012, azione rivendicata dal nucleo Olga della Federazione Anarchica Informale. Due compagni, gli anarchici Nicola Gai e Alfredo Cospito, risponderanno il 30 ottobre 2013 al Tribunale di Genova dall'accusa di attentato con finalità di terrorismo per il suddetto ferimento. Salutiamo con gioia e rabbia chi si oppone alle devastazioni perpetrate dal dominio e a testa alta continua a rivendicare valore ed efficace delle pratiche di lotta e critica reali per l'anarchia. Questa è la firma. Certo. E quindi questo è uno dei primi volantini usciti in prossimità del processo per Alfredo Nicola, lo ricordo, il 30 ottobre alle 9 del mattino, se ricordo bene l'orario. Comunque prossimamente verranno pubblicati tutti gli orari e anche come arrivare al Tribunale di Genova. Quindi i due compagni accusati del ferimento di Roberto Dinolfi. Ora ci ascoltiamo un brano di Gliatemai, il brano è Falling, dopodiché si torna qui e si leggerà ancora La Zantraglia. Falling back. trofei. Dall'isola di Cipro partiva la Rotta dei Rinnegati, chiamata così in omaggio ai biondi preduni del Mar del Nord che tra il XV e il XVI secolo si mescolarono ad altri rinnegati veneziani, genovesi e napoletani tra le capitali dei corsari moriscos, Algeri e la vecchia città di Salé sulla costa atlantica marocchina. Era una rotta per predatori che con pazienza aspettavano i vascelli nascosti tra le isole Egee o nella nebbia dell'alto mare. Sulla strada del ritorno le ciurme arricchivano i bordelli dell'intero Mediterraneo. La guerra di corsa contemporanea ha solo brevi soste, non c'è tempo per delle vere e proprie scorribande a terra. I ratissage nei bordelli si fanno più a nord, a Valencia, dove il terminal auto è proprio di fianco a un deposito di carbon coc, da cui partono svolazzi di polvere nera e fina che incrostano le automobili. Lì la nave rimane quasi 12 ore. E chi ci riesce sbarca al calar della sera, cercando di non sporcare i vestiti civili con grasso, olio e polvere di carbone, e corre verso i bordelli più grandi d'Europa, dove comprare rumene, brasiliane, argentine, spagnole, ucraine e non africane, perché le nere sono carne da macello, non ti danno nessuna soddisfazione. Vanno di fretta, troppo di fretta, e dopo tanto tempo in mare noi non abbiamo nessuna fretta, anzi ci piace bere uno o due drinks prima di acclimatarci nelle stanze, ci piace chiacchierare, mica siamo lì solo per svuotarci le palle. I marinai sono attenti al fascino femminile, quando ricorrono al sesso mercenario tentano di soddisfare la tendenza maschile alla conquista che certifica la loro appartenenza al genere. Arrivano, vanno avanti a bere e chiacchierare, poi scelgono una ragazza e consumano un coito poco più che solitario, dopo riprendono a bere. Passata la mezzanotte la matrona caccia tutti e chiude i battenti, e allora via in un altro bordello di sudamericane. Quando entrano dalle porte girevoli illuminati da neon verde, è subito festa, saluti, sorrisi e sguardi carichi di malizia. Ancora un'alcova e poi un'altra, fino a quando può succedere che qualcuno di loro non abbia più niente da spendere. Si guarda intorno, il locale è ormai semivuoto, i colleghi sono sprofondati in un divano, avvinghiati ognuno ad una ragazza diversa, e lui fa finta di niente e sale nella stanza superiore, dove confessa alla brasiliana di non avere più un soldo. Lei non si scompone, armeggia nel comò e tira fuori un POS per bancomat e carte di credito. «Hai una carta? Qualsiasi carta, una qualsiasi. Questo affare qui prende todo». Alle prime luci dell'alba la scorribanda finisce e tutti corrono a rotta di collo verso la nave. Si fiondano in cabina, doccia veloce, tuta da lavoro, e di soppiatto raggiungono la cambusa e prendono il vassoio coperto sul quale il comandante riceve la colazione ogni mattina. Sistemano allora 5 tanga colorati, regalo richiesto alle ragazze alla fine di ogni coito, e lasciano l'omaggio sulla scrivania dell'ufficio adiacente ai locali privati della cabina del master, il comandante. Poi schizzano ai posti di manovra per la partenza. Una volta in mare aperto il comandante li convoca. «E bravi ragazzi, vi siete spesi un mese di stipendio, però che odore, beati voi che siete la gioventù! Io quando avevo 11 anni andavo all'Azione Cattolica, dove i preti mi dicevano che se mi veniva duro era peccato. Adesso che ne ho 56, se mi viene duro dico è un miracolo!» E poi li congeda con una sticca di Marlboro, un premio per la virilità ostentata. E questi erano i Ramones, giusto per spezzettare, giusto con la lettura, leggiamo un altro comunicato in solidarietà con Alfredo e Nicola. Lo ricordo, siamo in prossimità del processo, quindi bene che ci siano più comunicati, visto che nell'ultimo anno c'è stata un po' una penuria, specialmente nei loro confronti, di solidarietà anche scritta. Allora, questo il comunicato è scritto a firma mia, a firma Radiazione, da titolo Solidarietà e complicità con Alfredo e Nicola. Il 30 ottobre prossimo i due compagni anarchici Alfredo Cospito e Nicola Gai saranno processati al Tribunale di Genova con rito abbreviato. Quali siano i motivi che hanno spinto i due compagni a scegliere questo tipo di iter processuale non mi interessa, perché conoscendo i due compagni, per la loro serietà e impegno che hanno sempre messo nella lotta contro l'esistente, sono cosciente che hanno deciso di intraprendere la strada che più ritenevano opportuno. Ricordo che i due compagni hanno scelto il rito abbreviato solo per quanto riguarda il reato di 280 CP, attentato con finalità terroristiche o eversive, mentre l'inchiesta per 270 bis, associazione sovversiva con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione all'ordine democratico, è ancora aperta. Una scelta che, per quanto può essere criticata da altri, non influisce sullo stato di salute e libertà illusoria di altri compagni. Alfredo e Nicola sono stati arrestati il 14 settembre 2012 con l'accusa di essere gli esecutori della gambizzazione dell'AD di avanzato nucleare Roberta Di Norfi, avvenuta il 7 maggio 2012 a Genova. L'attacco venne subito rivendicato dai compagni del nucleo Olga Fai FRI, Federazione Anarchica Informale, Fronte Rivoluzionario Internazionale. Non rimango stupito dal fatto che due compagni anarchici come Alfredo e Nicola vengano processati perché accusati di essere gli attentatori di chi è colpevole quotidianamente di attentare al nostro stato di salute e alla vita della terra. Di processi agli anarchici non se ne contano più in Italia, specialmente negli ultimi 15 anni. La cosa che mi lascia stupito è la stupidità, l'indifferenza e l'abbassare la testa da parte dei cittadini italiani davanti al problema nucleare. Si fa prima a puntare il dito contro chi è accusato di voler minare alla vita di chi ci ammazza lentamente che a fissare nell'obiettivo i veri terroristi, avanzato nucleare e Stato italiano. E dire che ci sono anarchici che appartengono a una federazione molto formale che trattano dei poveri operai di Ansaldo che perdono i posti di lavoro, ma che morissero di fame coi vermi salariati. Un'auto non si regge da sola in piedi, ma ha bisogno di tanti perni e bulloni che tengono strette e compatte le varie parti. Quei perni dell'Ansaldo sono gli operai, miserabili che per un tozzo di pane collaborano nell'inquinamento della terra e nei genocidi di massa attraverso tumori provocati dalla merda che ci fanno respirare e che finisce nei campi coltivati per cibo. Senza poi parlare dei problemi che portano le centrali nucleari, ricordiamo solamente che hanno bisogno del processo di raffreddamento e le temperature climatiche che possono essere molto pericolose. Se a Nord Europa hanno avuto problemi di raffreddamento, addirittura innaffiando il tetto di una centrale per abbassare la temperatura per il suo funzionamento, non voglio immaginare in Italia cosa potrebbe accadere. In tutto ciò le centrali nucleari non sono spesso costruite nelle vicinanze del mare, proprio perché hanno bisogno di un grosso quantitativo d'acqua che prendono fredda dal mare e la riversano calda, causando gli eccessivi surriscaldamenti dei mari con tutto quello che ne deriva. Questi sono alcuni dei motivi per combattere contro il nucleare, questi sono alcuni dei motivi per cui non mi meraviglio che qualcuno abbia puntato il grilletto e sparato contro la persona che è la causa di tutto questo. Il 30 ottobre toccherà ad Alfredo e Nicolo essere processati da voi, ma sappiate che prima o poi toccherà a voi, ma senza un processo, perché siete stati già condannati. Solidarietà e complicità con Alfredo e Nicola, Radiazione. E questo era lo scritto fatto da me, da sottoscritto, in solidarietà con Alfredo e Nicola, e che Marcello qui a fianco dice che di sottoscrivere. Si è parlato anche, cioè, in questo testo parlo in particolare dei problemi che possono portare al che può portare il nucleare, ma ovviamente ce ne sono 3.000. Se volevo mettermeli a descrivere tutti non si finiva più. Comunque resta ferma la solidarietà e la complicità con Alfredo e Nicola. Poi volevo già dire un'altra cosa, per quanto riguarda la scelta di Alfredo e Nicola. Ho saputo che qualcuno è rimasto un po' così dopo aver letto queste due righe. Era riferito al fatto che molti compagni comunque continuano a criticare una scelta come rito abbreviato, non sapendo tutto quello che c'è dietro. Quindi cioè, io conosco bene Alfredo e Nicola, quindi per me non è un problema che loro abbiano fatto una scelta, loro stanno loro in galera. E non solo per questo, perché comunque loro hanno fatto una scelta per quanto riguarda il 280 CP, l'attentato con finalità terroristiche, e non l'inchiesta 270 bis, che potrebbe includere altre persone. Lo sappiamo che cioè, poi parte da loro tre, che poi insieme a loro c'è Anna Beniamina, la compagna di Alfredo Cospito, e poi l'associazione cercano sempre di allargarla a quanti più è possibile. Questo era solo per due, la scelta di Nicola e Alfredo è solo per 280 CP. Ora ci ascoltiamo un brano, sono Explicit con Burnout, poi dopo si torna qua e si torna con la Zandraglia. Chances burn. tra pirati, fantasmi e ammutinamenti. I rischi del mestiere del mare al tempo del container vengono sia dall'interno che dall'esterno. A bordo gli infortuni sono sempre in agguato, le intossicazioni da monossido di carbonio nei garage e della macchina competono con i tagli e le ossa fracassate durante le operazioni di ormeggio e disormeggio. Le cadute, le gastroenteriti, le emorroidi e altri malanni, gravi e meno gravi, sono comuni nella navigazione. Ma il cruccio maggiore è la sicurezza tecnica, il corretto funzionamento dei dispositivi e dei meccanismi che garantiscono l'andamento del cargo. Non meno temuti sono i pericoli esterni, primo il maltempo inevitabile, secondo la pirateria, il terrore dei mari che attraversa tutti i tempi. Nella saletta ricreativa della nave ci sono tre poster. Il primo è un invito al rispetto della sicurezza sul lavoro. Safety first, recita lo slogan. Un altro illustra le procedure di evacuazione con fumetti in bianco e nero. E l'ultimo è il disegno che rappresenta un pirata dei tratti orientali mentre scavalca la murata di una nave stringendo un coltellaccio tra i denti. Una scritta giallo ocra ammonisce: Be vigilant in Pirates Area. Il Mediterraneo ha perso quasi del tutto i suoi pirati. Le acque infestate sono altrove. Il Golfo di Aden, il Canale di Panama, lo Stretto delle Molucche, zone dove i mercantili sono costretti a rallentare e vengono facilmente abbordati dai pirati. Fino a pochi anni fa le acque più pericolose erano quelle della zona delle Molucche, uno stretto naturale tra Singapore, Thailandia e Malesia. Qui dal 2004 al 2008 si sono verificati ogni anno circa 130 attacchi contro mercantili e navi passeggeri. Il secondo ufficiale, corpulento uomo di mare stanco di anni passati a trasportare la merce degli altri, ne ha vissuti alcuni, ma ne conserva gelosamente il ricordo. È stato un vino rosso ischitano portato di contrabbando a bordo in bottiglie di plastica da un litro e mezzo a regalarmi il suo racconto di pirati postmoderni, altro che Sandokan. Era notte, ero di guardia. La nave era una petroliera carica con le murate quasi a fior d'acqua. Due tonfi secchi ci aggredirono dai due lati della nave. Pensammo di essere incappati in un container disperso o un altro oggetto galleggiante. Fu come un tuono. Il grido di aiuto in un inglese stentato anticipò di poco l'arrivo di un marinaio bulgaro che correva trafelato lungo il ponte. Accesi allora uno dei riflettori di coperta e illuminai il ponte. C'erano già due figure armate di macete che scavalcavano la paratia. Da basso qualcuno azionò un idrante, uno di quegli oggetti che si usano per spegnere gli incendi caricati con una miscela di acqua di mare e agenti chimici anticombustione. Il liquido ricacciò in mare il primo pirata, ma dall'altro lato ne comparvero altri due. Andavamo a 18 nodi, una velocità considerevole, e perciò non ci spiegavamo da dove riuscissero a salire. Quei pirati avevano un metodo efficace per abbordare i cargo. Tendono un cavo tra due barchini e vi lasciano entrare la chiglia della nave prescelta in modo che la tensione del cavo li adagi alle fiancate così da farsi trainare. E poi iniziano l'abbordaggio. Dalla nave iniziò un bombardamento di rottami ferrosi, bulloni e altri proiettili improvvisati. Furono 10 minuti di follia. Le barche non si allontanavano. Uno dei pirati armeggiava sulla prora, difendendosi dagli oggetti che piovevano con un piccolo scudo di legno. In plancia il comandante chiamava di continuo il port control più vicino, ma non arrivò mai risposta. D'improvviso i barchini abbandonarono lo scafo e si dileguarono nel buio. Noi urlammo a perdifiato, sbattevamo il petto l'uno contro l'altro e ci abbracciavamo per aver scampato il pericolo. I pirati vogliono tutto. Il carico, i valori personali, la cassa della nave. Ma da qualche anno è ripresa un'antica abitudine, il sequestro della nave a scopo di riscatto. Ai tempi dei radar dei container, i pirati contrattano milioni con le compagnie di navigazione, prendendosi letteralmente beffa di ogni contromisura militare o tecnologica. La Salè contemporanea, una delle corti corsarie al tempo del container, è Ail, un villaggio in poco tempo diventato gigantesco della costa del Puntland somalo. Qui si organizzano le bande pirate attive nel Golfo di Aden, estuario meridionale del canale di Suez sul Mar Rosso, uno degli specchi acquei più transitati del mondo. A largo del Corno d'Africa l'opulenza nascosta nei convogli di cargo fa gola ad una popolazione stremata dalla guerra civile e aggredita dagli interessi occidentali. Nella Somalia, finalmente senza Stato, ha preso vita una declinazione postmoderna della pirateria capace di elaborare proprie tattiche e strategie. La corsa dei pirati aggredisce la corsa dei mercantili. Gli attacchi fanno lievitare i costi delle assicurazioni, trust mercantili corsari del mondo finanziario. Grazie ai pirati, le compagnie hanno alzato le tariffe, aumentato introiti e favorito la progettazione di nuove superpetroliere per tornare a circumnavigare l'Africa, pur di sottrarsi al rischio. Il Golfo di Aden è ormai una strettoia del commercio internazionale pattugliata da unità della marina militare NATO, indiana, cinese e russa. Quando scampano ai pirati di mare, i cargo incappano nei pirati di terra che si intrufolano a bordo, arrampicandosi dalle catene delle ancore. Scivolano nei locali di prora e scelgono se assaltare i depositi della nave o svuotare interi container. Agiscono di soppiatto. Dopo una notte in rada a largo di Dar el Salam, la portacontenitori olandese Safe Marine Cotonou è stata alleggerita di due interi container. L'equipaggio della Mole Rice, ormeggiata nel porto tanzanese, si è ritrovata abbordata da un peschereccio da cui partivano ombre agili che svuotavano i container più prossimi alle murate. La portacontenitori cipriota North Star è stata assaltata all'imbocco dello stesso porto. I pirati hanno abbordato la nave dalla biscaglina slegata in attesa del pilota. La pirateria di rapina è una delle forme della guerra di corsa al tempo del container, ma ha solide radici nel passato. I cargo pirata, che hanno combattuto i conflitti del secolo breve, attaccavano la merce in transito per distruggerla, oppure per appropriarsi di materie prime. I cargo pirata mascherati da mercantili sono stati fantasmi del mare, terrori dei convogli di rifornimenti di ogni bandiera. La guerra di corsa ha attraversato tutto il secolo breve. I cargo fantasma tedeschi sono stati l'incubo dei mari attraversati dalle guerre mondiali. La storia dell'Atlantis, in tal senso, il corsaro del Terzo Reich, è l'overture della guerra di corsa dai caratteri moderni. Salpato da Brema nel 1941, vi fece ritorno un anno e mezzo dopo. Fu il viaggio più lungo della storia della marineria moderna. Vagava per gli oceani mimetizzandosi, cambiava nome, bandiera e perfino aspetto grazie a delle ingegnose mascherature che ne nascondevano i cannoni alla vista del nemico. Aggredì e colò a picco decine di mercantili alleati. Si avvicinava a convogli lenti e a mercantili isolati e colpiva senza preavviso. A bordo, quei corsari erano mimetizzati da marinai della marina mercantile. Il suo combattere ignorando le regole del mare ne ha fatto uno dei prolegomeni della guerra di corsa contemporanea. La pirateria, insomma, si rinnova. E se i corsari nazisti, ma anche di altre nazioni, miravano alla distruzione o alla rapina dei carichi nemici, i pirati della postmodernità hanno sviluppato nuove tecniche d'assalto ai cargo. Le dimensioni sempre più grandi delle navi, tuttavia, hanno favorito lo sviluppo di forme di pirateria minuta, fatta da miserabili della terra che vedono nelle navi la ricchezza cui non avranno mai accesso, il mare, e quindi lo spazio per predoni di natura diversa. Dietro gli atti di pirateria non di rado si celano commerci illegali. Carichi di armi vengono formalmente rubati ma informalmente consegnati a stati e governi sottoposti a embargo o ad altre misure di restrizione delle relazioni commerciali. Nel maggio del 2007 il cargo ucraino Faina è stato trattenuto per più mesi nella rada di Eil e liberato privo del carico, ovvero 15 moderni carri armati finiti a potenziare l'armata di uno dei signori della guerra somali. Nel 2008 un cargo, sempre ucraino, intercettato a largo di Aden, trasportava dei carri armati di produzione russa da consegnare al Sudan, paese sotto embargo per gli armamenti. È in tal caso per ironia della sorte, sono stati proprio i corsari postmoderni a svelare una forma di pirateria commerciale, altrimenti destinata a rimanere nascosta tra le pieghe di documenti di carico falsificati. Al tempo del container, il Mediterraneo è ritornato ad essere un reticolato di vie di comunicazione. Non c'è spazio per i pirati nelle autostrade del mare, quei tratti immaginari disegnati sulle carte nautiche in cui va in scena la corsa di decine di cargo. In coperta il vento è aumentato, ci stiamo avvicinando al fatidico punto delle 100 miglia, distanza in cui ogni nave deve segnalare la propria identità alle autorità marittime israeliane per evitare di essere abbordate da unità della marina militare o dell'aviazione locale. Il secondo ufficiale si infila un berretto di lana e mi fa cenno di seguirlo. Bisogna controllare il carico prima dell'alba, assicurarsi che ogni auto sia ben chiusa e pronta per lo sbarco. La security israeliana è molto precisa in ragione del timore permanente che attanaglia il paese. Quel continuo alternarsi di attentati e contrattacchi che caratterizza da decenni la vita dello Stato ebraico. Scendiamo nei garage aggrediti dal tanfo del carburante residuo dei serbatoi dei veicoli. Troviamo il primo ufficiale, giovane e voglioso di far bene, mentre dà una strigliata ai marinai filippini che lo guardano impassibili. Le rizze del rizzaggio non sono state messe bene e il primo si è addirittura calato sotto un'auto per dare dimostrazione pratica di come si dovrebbero legare le ruote al ponte. I marinai, con le tute sporche di grasso, bofonchiano e sembrano insensibili al tono della voce e alla rabbia alimentata anche dall'ora tarda, quel momento in cui i nervi stanchi e privi di sonno giocano brutti tiri anche alle persone più controllate. Osserviamo la scena per un po', poi proseguiamo nel nostro giro. Nel garage più sotto troviamo delle scritte fatte con un pennarello sulle paratie grigiastre. Sono insulti e minacce rivolte al giovane primo ufficiale sbarcato a Salerno. Ha una reputazione da uomo d'ordine, duro e lavoratore. Non è ben accetto agli equipaggi già provati alla vita di mare e dalle sue inevitabili durezze. «Quando comandi devi stare attento», mi dice il secondo, controllando le chiusure di una cisterna portagas turca destinata a sbarcare in Egitto. «È una questione delicata. Devi sapere dare gli ordini nel modo giusto perché, alla fine dei conti, resti in balia del mare e del tuo equipaggio. Mica sei a terra che dopo un alterco te ne torni a casa. La nave è l'ambiente in cui la gerarchia diventa tangibile e perciò a bordo è il regno dei rancori, delle meschinità e delle insofferenze, e gli ufficiali diventano il bersaglio su cui riversare le cause di ogni male, di ogni disagio. Sui cargo Trump di piccole e medie armatori, degli equipaggi molto tristi, delle condizioni di lavoro più dure, gli ammutinamenti nascosti sono abbastanza frequenti. Gli sbarchi sono più diradati e incerti, gli imbarchi più lunghi e gli stipendi non adeguati. Allora, ufficiali minacciati e accerchiati scendono a patti con i marinai infuriati, mentre i comandanti troppo zelanti riscontrano piccoli atti di sabotaggio volti a rallentare l'operazione in navigazione come in porto. Talvolta si sfiorano tragedie, si compiono atti di follia e qualche ufficiale ci può addirittura rimettere la vita. A largo della costa di Finisterre, in Francia, nell'autunno del 2008, un secondo ufficiale di macchina italiano ha fatto fuori il suo comandante con una coltellata al cuore, tentando subito dopo di togliersi la vita. È un caso estremo. Di solito l'ammutinamento non è mai dichiarato, diventa un conflitto sotterraneo e a bassa intensità. A bordo delle navi della nostra compagnia raramente si è andati oltre gli insulti e le antipatie manifestate, ma non mancano ufficiali malmenati ritrovati ancora privi di coscienza in uno degli angoli più oscuri della nave. Dopo il dolore delle botte, la paranoia, la sindrome di accerchiamento, la paura di ritrovarsi di nuovo in mezzo a un cerchio di marinai spazientiti che minano fendenti senza testimoni per vendicarsi di un ordine sbagliato, di una richiesta eccessiva, della rapina del tempo di riposo, come a volte si dice in gergo. È un fenomeno diffuso legato alla disciplina di bordo. Il timore di punizioni, sbarchi anticipati e conseguenze economiche fa ingoiare molti rospi, anche se a malincuore. L'equilibrio a bordo è qualcosa di estremamente fragile e il master, il comandante, deve dosare bene durezza e comprensione per non acuire reazioni e situazioni che possono portare a danneggiare il percorso del cargo o a rallentarne la corsa. E quindi distilla riconoscimenti, sigarette, permessi in porto e altre misure che contribuiscono a mantenere l'ordine interno di un cargo. Antipatie e simpatie sono trattenute nello stomaco, limitate a sguardi e battute salaci. Tutto intorno è mare, pericolo, liquido che smussa gli spigoli dei caratteri umani rinchiusi tra ponte e coperta, tra plancia e macchina, tra marinai ed ufficiali. Force in the world. Questi erano Alien Six Friend con il brano The Impossible Mission. Ora passiamo di nuovo alla controinformazione, diamo un attimo un aggiornamento sui compagni detenuti sia nell'AS2 di Ferrara che nel mondo. Partiamo dall'S2 di Ferrara, dove Sergio, unico compagno ancora in custodia cautelare per l'operazione Ardire dal giugno 2012, dopo il passaggio di competenza da Perugia a Milano il 21-22 ottobre, sarà a Perugia per le udienze conclusive di primo grado dell'operazione Shadows, stesso mandante in entrambi i procedimenti, la famigerata marionetta De Ross, la PM Emanuela Comodi o Comodino, come preferite. Adriano, arrestato nel settembre del 2013 nell'ultima operazione repressiva del ROS romano, assieme ad un altro compagno, probabilmente ancora in isolamento a Regina Coeli a Roma. Alfredo e Nicola verranno trasferiti in prossimità del processo a Genova il 30 ottobre per scrivere ai compagni detenuti nell'AS2 di Ferrara. L'indirizzo, i nomi li sapete, è CC Casa Circondariale Ferrara, via Arginone 327 44122 Ferrara. Invece dall'Italia passiamo un attimo al Cile, dove il compagno dove il 15 ottobre c'è stata ieri un'udienza per il compagno Victor Montoya. Si aspettano ancora aggiornamenti sulla situazione. Praticamente ieri l'oscura magistratura del sud ha chiesto di prorogare i termini di indagine nei confronti di Victor Hugo Montoya, accusato ai sensi della legge antiterrorismo di aver collocato una bomba sotto una caserma. La mossa della procura è quella di estendere la detenzione del compagno, cercando di convincerlo attraverso il ricatto ad accettare il rito abbreviato in cui ammette il reato per la legge antiterrorismo. La solidarietà con Victor Montoya, solidarietà, giornata di informazione, riflessioni e solidarietà. E c'è un manifesto per questa giornata sulla radiazione, chi lo vuole lo può vedere oppure lo può scaricare. Invece a Milano, nella Villa Vegan, c'è stata una cena benefit per Alfredo e Nicola. Leggiamo il testo dei compagni della Villa Vegan. Domenica 13 ottobre 2013 alle ore 20:30 a Villa Vegan occupata. Alfredo e Nicola si trovano in carcere al momento del loro arresto, avvenuto a settembre 2012, sotto l'accusa di essere responsabili del ferimento con i colpi di arma da fuoco dall'amministratore delegato di avanzato nucleare Roberto Adinoffi, azione rivendicata dal nucleo Olga della FAI FRI. Il 30 ottobre è la data di inizio del loro processo e sarà l'occasione per salutare e sostenere i due compagni presenti all'udienza. Voi aspettate la rivoluzione, e sia, la mia è da molto più molto tempo incominciata. Quando sarete pronti, Dio che è lunghissima attesa, non proverò disgusto a percorrere un tratto di cammino con voi. Ma quando vi fermerete, io continuerò la mia marcia, folle e trionfale, verso la grande e sublime conquista del nulla. Ogni società che voi costruirete avrà i suoi margini, e i suoi margini di ogni società si aggireranno i vagabondi eroici e scavigliati dai pensieri vergini e selvaggi, che solo sanno vivere preparando sempre nuove e formidabili esplosioni ribelli. Io sarò fra quelli, Renzo Novatore. Villa Vegan, la cena già c'è stata, quindi è inutile che vi dia l'appuntamento. E questa era l'ultima notizia di controinformazione per oggi. Ora passiamo a un brano di DK.com, Your Own Prison, e poi dopo si torna con la lettura della Zandraglia, l'ultimo per oggi paragrafo del libro, e poi dopo ci saluteremo, daremo gli indirizzi utili e l'appuntamento nuovo con la diretta di radiazione. Allora, DK.com, Your Own Prison. Emptiness inside my head, a voice I need to fill. We'll be right back. Ashdod, the duty-free promised land. Sulle carte nautiche la costa di Ashdod in Israele è segnata da un tratteggio simile al filo spinato. Siamo a pochi chilometri da Gaza, dichiarata zona inaccessibile, prohibited area, in maniera unilaterale dalle autorità israeliane. In questo spicchio di Mediterraneo la velocità massima di ogni battello non può oltrepassare i 15 nodi, oltre i quali elicotteri e motovedette militari di Tzal, il complesso militare di Israele, entrano in azione. In mare si ripercuotono le tensioni della terra. Ashdod è a uno sputo da Ashkelon, la cittadina dove piovono frequentemente i razzi di Hamas. L'arrivo in Israele, una routine per il cargo delle autostrade del mare Mediterraneo, però è sempre una faccenda complicata. Qui la burocrazia non è formale, non veste gli abiti di facciata con cui si manifesta in molti altri porti mediterranei e mondiali. I controlli sono veri ed efficaci, i documenti vengono esaminati minuziosamente. Ormai le guardie di frontiera riconoscono gli ufficiali e i marinai abitudinari della tratta. I funzionari sono 4 donne e un ragazzo con la kippa fissata con una forcina civettuola. Prima di salire a bordo hanno lasciato le loro Uzi nel SUV, le mitragliette. E nel SUV li aspetta un autista che scruta la nave da dietro un paio di occhiali scuri a goccia. La mano portuale, la gang, è già in banchina, uomini dalla pelle scura, olivastra, alcuni con i capelli lunghi, tutti con un fare disinteressato. Gli israeliani sono assai simili ai tanti portuali mediterranei, eppure risultano a loro modo unici. Un mescolio di tracotanza occidentale e indolenza mediorientale. Ashdod, vista dal mare, sembra l'unico porto industriale del Mediterraneo meridionale, se non dell'intero Medio Oriente. La teoria di Gru che accoglie i naviganti chiarisce immediatamente che ci troviamo in un avamposto dell'Occidente. Le grandi Paceco, le gru libere con la benna a becco, spiccano come aculei sulle quattro darsene principali del porto dell'import israeliano. Haifa non è lontana, ma da lì la merce parte, non entra. Haifa è il porto dell'export, Ashdod quello dell'import. Noi scarichiamo automobili che vanno a rimpinguare la distesa immensa di veicoli parcheggiati al sole nel piazzale di fianco al nostro molo. Il rito delle sigarette agli ormeggiatori si ripropone poco prima della salita degli agenti doganali. La rada ormai alle spalle ospita non meno di 15 mercantili e portacontenitori. Poco prima dell'imbocco del porto, una centrale termoelettrica sbuffa fumo alacremente candido, mentre poco distante le ciminiere delle raffinerie bruciano gli scarti di lavorazione alimentando le fiamme perenni nei grandi comignoli delle ciminiere. Le guardie di frontiera mi perquisiscono la cabina insospettite. Sono nuovo a bordo, non è la prima volta che vengo in Israele e perciò controllano i titoli dei miei libri, il contenuto del mio frigorifero, le cucitura dell'unica giacca che penzola triste dalla gruccia dell'armadio. Durante le domande dell'interview di rito, il ronzio del lavoro esterno mi distrae di continuo. Sono due rimorchiatori che portano i nomi degli eroi della città, Sansone e Dalila, e accompagnano decine di navi verso le banchine. Un cargo russo scarica grano proveniente dal Mar Nero, un mercantile di Bratislava pulisce le stive per il prossimo carico di granaglie. Tutto intorno, le portacontenitori turche, italiane e svedesi scaricano senza sosta. I portuali sono tante figure minuscole vestite in calottine fosforescenti e caschi gialli. Scompaiono e riappaiono dalle stive e dai cunicoli che attraversano le pile di contenitori. Israele, dal mare, si presenta come un paese normale. Giù dalla rampa l'equipaggio bestemmia, coinvolto in noiose operazioni di shifting. Il carico è un gioco di incastri ed equilibri. Decido allora di andare in città, approfittando della sosta un po' più lunga. Desisto non appena mi trovo davanti al primo dei cinque checkpoint militari da attraversare prima di arrivare nello stradone anonimo dove prendere un taxi per il centro. Io non ho voglia di perdere il mio tempo, già esiguo tra controlli e traffico, e allora ripiego verso l'area dei duty free. A bordo se ne parla da giorni dei free shops israeliani dove è possibile acquistare di tutto pagando in dollari o euro. Arrivo alla palazzina dei negozi e incontro mezzo equipaggio. A bordo non si spendono soldi, o meglio si spendono raramente, e adesso sono tutti lì a contarseli i soldi. Chi vuole una videocamera digitale, chi cosmetici del Mar Morto, chi dolciumi, chi vestiti, altri cercano i regali per donne e famiglie lasciate a casa, quei regali incapaci di compensare un'assenza inevitabile. Anche io entro in una scatola di vetro duty free. Mi immergo nel solito panorama di cose banali che affollano gli scaffali dei grandi magazzini europei. Le commesse, la cassiera e il proprietario sono immigrati russi, protagonisti dell'ultimo ritorno nella terra di Sion, quello post 1989. Bionde e carine, le commesse sostengono senza sosta il gioco di sguardi e ammiccamenti con marittimi di tutte le nazionalità. Il duty free ha sostituito il Siemens Center, il luogo tradizionale di raduno dei porti moderni, dove era possibile telefonare usando cabine a tariffe agevolate, connettersi alla rete o semplicemente aspettare qualche ora parlando con uomini di altre navi. Il duty free occupa il tempo con gli acquisti, mette a profitto il riposo del navigante. I marittimi, che probabilmente trasportano nei container delle navi la stessa merce che comprano, sono fagocitati a comprare. Per non essere da meno rispetto agli altri, riempie un carrello di piccole nezie dando sfogo a istinti indotti. I filippini si ammassano laddove è accessibile una rete wifi e in pochi minuti decine di marinai asiatici indossano le cuffie auricolari e, grazie a programmi telefonici, iniziano a chiamare casa. I russi e gli europei dell'est scelgono i metodi più tradizionali. L'unica concessione alla modernità sono le schede telefoniche prepagate. aspettano il turno del telefono pubblico in lunghe file dalle eco-real socialiste e guardano le palme piantate a schiera nell'asfalto ammorbate dai gas di scarico dei mezzi pesanti, pallide e anemiche. È un porto frenetico quello di Ashdod, ma come tutti gli altri porti sembra immobile, sbuffante ma fermo. Per un niente mi lascio sfilare davanti il pulmino gratuito del duty che riaccompagna i clienti alle rispettive navi, guidato da una avvenente ragazza ucraina. Un commesso chiude la sala cinesca, mi vede e si avvicina. Chiede del fuoco e poi, dopo qualche informazione sul mio imbarco, mi propone donne, cocaina, hashish. Israele è davvero un paese normale. Non ho né soldi né voglie particolari. Sono rimasto a piedi e mi preme ritornare nei pressi della nave e non sono vicino. Mi incammino a vista, cercando con gli occhi il cargo che si staglia prepotentemente dietro i profili delle gru. In una piccola darsena oscurata dai container trovo dei pescherecci di legno marcio, le reti puzzano di pesce appena pescato, i pescatori borbottano in ebraico. Calpesto l'asfalto deformato simile a quello di altri porti e ad uno svincolo vengo aggredito da un tanfo di decomposizione e mi trovo davanti ad un'enorme massa di rifiuti solidi urbani. Immondizia bella e buona, catassata a mo' di scarica. Forse anche i rifiuti qui sono in attesa di essere caricati verso chissà quale destinazione. Mi allontano a passo spedito e mi inoltro in una delle lande piene di autoveicoli. I cofani, i tettucci e i parabrezza hanno ancora dei pannelli adesivi di protezione incollati con attenzione. La mia nave si fa sempre più vicina. Arrivato ad un'estremità del piazzale trovo delle carcasse di Rolls Royce e Jaguar. Le abbiamo scaricate noi. Provenivano da Southampton. Sono cumuli di ruggine, chissà dove andranno a finire. Non ho il tempo per trovare una risposta che una pattuglia di controllo mi ferma chiedendomi il passaporto e il permesso di sbarco, poi mi invita ad accelerare il passo per rientrare a bordo. Nel porto non si può passeggiare. Arrivo sotto bordo mentre la mano portuale sta imbarcando due Aston Martin del 1966 che sembrano nuove di zecca. In Israele restaurano le auto di lusso e le rivendono a caro prezzo sui mercati occidentali o della penisola arabica. I gioiellini meccanici da collezionisti fanno appena in tempo a essere caricati che una melodia da cartone animato sovrasta ogni altro rumore. È la sirena di fine turno dei portuali israeliani che vanno a bere il tè nel loro furgone parcheggiato di fianco alla nave. Il caposquadra è un ebreo ortodosso dalla barba lunga e i boccoli alle orecchie, la camicia bianca che spicca sotto la tuta da lavoro e la pettorina fluorescente. Pulisce gli occhiali e dà ordini perentori alla sua squadra. Dopo mezz'ora il lavoro riprende, arriva anche il supercargo locale. È una donna pingue, dall'apparenza ingorda. Chiede subito tè e soft drinks, e neanche un quarto d'ora ha scolato 5 lattine di Coca-Cola. Finite le pratiche mi fermo con un giovane portuale che non spiccica una parola d'inglese. Usiamo i gesti e pochi vocaboli di yiddish e tedesco. Di improvviso mi fa caffè, caffè, caffè. Un déjà vu. Improvviso mi riporta ai caffè amari, al fango industriale del porto napoletano, ai suoi container scivolosi. Entro dentro l'ufficio carico, metto su una moca e preparo le due immancabili sigarette da fumare con la gola già roca. Finito il caffè, lo seguo nel garage numero 3 dove bisogna sistemare dei container. Il trattore è Dagmaster, ha le fauci alzate e carica gli scatoloni di ferro a ritmo sostenuto. Il driver di bordo è uomo di mestiere. Lo sono un po' meno i ragazzi della mano portuale, visibilmente impacciati a sostenere il ritmo elevato. Un portuale, smilzo dagli occhi bruni e la carnagione olivastra, si fa scivolare di mano un twist lock che si perdono sotto altri veicoli o altri container. Il rombo del trattore segnala una nuova scatola in arrivo, poi di botto un rumore simile ad un colpo di pistola ci aggredisce le orecchie. Uno dei pesanti copertoni delle ruote del trattore ha fatto schizzare un twist abbandonato sul pavimento. È un proiettile di grosse dimensioni, inizia una carambola tra noi, il container e la paratia interna. Ci troviamo improvvisamente in un flipper di morte. Chi viene colpito non ne esce sano, non serve schiacciarsi al suolo, bisogna rimanere fermi come statue di sale, gli occhi allerta, cercando di indovinare la traiettoria e sperando di non essere colpiti. Una sequenza di tonfi sempre più deboli ci avverte di aver scampato il pericolo. Game over. Riprendiamo fiato, ci guardiamo e andiamo avanti senza far caso alla sorte degli altri oggetti che potrebbero schizzar via da un momento all'altro. Il ferro dei twist riesce a perforare i copertoni e a far uscire un getto d'aria compressa a 12 bar, capace di schiantare con violenza un uomo lontano, ferendolo o addirittura uccidendolo. Quando osservo i portuali e l'equipaggio manovrare i trattori del garage, fissare i twist e le sbarre, noto la grazia involontaria dei loro movimenti. Ricamano il ferro grezzo intorno ai contenitori. Il sistema idraulico delle fauci del trattore consente movimenti sinuosi ad uno scatolone apparentemente disarmonico. Una leva aziona un insieme complesso di catene e tiranti che permettono aggiustamenti di posizione di pochi centimetri, quelli necessari a risparmiare spazio e ottimizzare il carico. Tra trattori, scheletri di autobus da carenare, autoveicoli grezzi, cisterne e container, mi accorgo che nel garage si ripete di giorno in giorno la scena in cui elementi meccanici e elementi umani entrano in armonia tra loro. Al tempo del container si realizza uno degli infiniti miracoli del mare, nello spazio angusto dei garage di un cargo. Fuori è notte quando il lavoro si avvia alla fine. In breve saremo di nuovo al largo, nel buio del mare aperto. Sotto di noi la sabbia dei fondali di Israele si trascina verso Suez, passerà nel Mar Rosso e continuerà di mare in mare a osservare le navi da sotto la chiglia. Una prospettiva, certo, inusuale. E con oggi finisce qui la diretta d'azione. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che è per lunedì 21, stessa ora, ore 17, con letture, controinformazione e musica. Ricordo che venerdì prossimo non ci sarà la diretta d'azione, abbiamo trovato una via di mezzo, abbiamo posticipato quella del lunedì e anticipato quella del venerdì ad oggi. Quindi per questa settimana la redazione spegne i microfoni e quindi si ripartirà per lunedì prossimo, 21 ottobre. Ricordo gli indirizzi utili: radiazione@odistici.org per la mail, radiazione.noblogs.org per il blog, dove potete trovare la controinformazione aggiornata tutti i giorni, quotidianamente. Per la radio radiazione.listetumaradio, altrimenti attraverso il banner che trovate sul blog di Radiazione ci cliccate sopra il lunedì e il venerdì dalle 17 oppure dalle 16. Ricordo che dalle 16 Radiazione è attiva con una playlist musicale un'ora prima della diretta d'azione. Per il resto niente da dire, quindi l'appuntamento è a lunedì 21 ottobre. Vi lascio con un brano dei Girls Under Glass, Shadows of Fear. L'appuntamento è lunedì 21 ottobre, ore 17. le letture, provocazioni.